La situazione sta chiaramente evolvendo in favore della fine del monopolio, nel senso io quello che vedo è che si stanno un po' sistemando tutti i pezzetti e che poi dovranno portare inevitabilmente a questa scelta. Quello che vedo però è che ci si sta avvicinando a questa cosa senza veramente la capacità di analizzare appieno quello che comporta sia la fine del monopolio che l'ingresso insomma delle indipendenti nel campo della gestione. C'è molto un tifo da stadio in questi giorni, come potete credo vedere dai giornali o comunque dai social, dove si combattono a colpi di post uno e un altro, eccetera eccetera. Un po' una questione secondo me che sta andando in modalità stadio ultimamente. E a tal proposito allora voglio chiederti se la liberalizzazione, come dire, è il bene assoluto? Io credo che più che il bene assoluto sia una situazione inevitabile, nel senso che per come ha legiferato con la direttiva l'Unione Europea c'è poco da fare, è inevitabile. È inevitabile che si vada verso una liberalizzazione della gestione del diritto d'autore, tanto che Soundriff è già 2 anni che opera in Italia dall'Inghilterra, insomma, cioè proprio non ha più alcun senso di esistere il monopolio in Italia, nel senso che siamo già in una situazione di liberalizzazione. Per quanto riguarda il mio parere rispetto alla liberalizzazione, si sta andando verso una liberalizzazione totale, nel senso davvero dei liberi tutti, quindi l'ingresso degli indipendenti, penso che possa portare parecchi rischi per gli autori. Bisognerebbe riuscire a guidarla in maniera intelligente questa liberalizzazione, cosa che secondo me non sta succedendo. Vorrei vedere anche dalla prospettiva dalla parte dell'utilizzatore, no? Io sono un barbiere che nel mio negozio metto su un CD pagando i diritti d'autore, ma metto su Vasco Rossi che è coperto dalla SIAE e Fedez che è coperto del Soundriff. Devo pagare a tutti questi due soggetti? In teoria sì, così come se tu fossi negli Stati Uniti, dove ci sono tipo almeno otto collecting diverse, dovresti appunto pagare 8 collecting diverse. Questo chiaramente dalla parte dell'utilizzatore, nel momento in cui non si tecnologicizza tutto e non si equalizza tutto e non si trovano anche dei sistemi super partes per gestire queste cose, è un po' una grana, insomma, tendenzialmente, nel senso che tu ti troveresti da barbiera a dover pagare la tassa alla SIA, la tassa Soundriff, la tassa alla e alle varie altre eventuali collecting che dovessero uscire. Quello che secondo me bisognerebbe fare oggi, che nel 2017 siamo nell'era dell'automazione totale, è appunto snellire queste procedure attraverso dei database, che però dei database e degli strumenti unificati di pagamento, insomma, soltanto che non mi sembra molto avanti questo discorso, per cui io temo che per un certo periodo ci sarà comunque da impazzire pagando varie collecting, ecco. E questo, insomma, potrebbe essere anche una penalizzazione. Sì, cioè considera che tu oggi in teoria, tu barbiere, se tutto funzionasse correttamente, se ci fosse cooperazione fra le collecting e non competizione, tu potresti pagare in un'unica formula i diritti a tutti, magari ad un'authority terza che poi proverebbe a smistarli tra le varie collecting, oppure attraverso dei sistemi digitali che automaticamente vanno a riconoscere quello che tu hai suonato e reindirizzano parte dei tuoi soldi di qui o di là. Però insomma non esiste ancora questo metodo. Chi invece produce le proprie opere d'arte in Creative Commons, che situazione si trova con? Allora, ad oggi il dibattito sulle Creative Commons è silente, nel senso che ne parla anche la direttiva Barnier, cioè in teoria uno dei punti della direttiva è quello che un autore dovrebbe avere la possibilità di scegliere anche altri metodi di licensing che non siano l'all rights reserved del copyright all'interno della sua collecting. In teoria uno dovrebbe poterlo fare secondo la direttiva. Quello che attualmente è che tu in sì, la SIAE non sa neanche che cosa sono le Creative Commons, nonostante c'è una di percorso in atto per cercare di capirle, magari di comprenderle, ma si parla di tempi lunghissimi, per cui per la SIAE ancora non esistono. Per Soundriff accetta depositi in Creative Commons, però non fa la raccolta dei diritti. Cioè, la situazione odierna è che le Creative Commons, finché non inizia a funzionare un ente che pratica la gestione, la raccolta e la redistribuzione delle royalties, rimangono ancora delle licenze purtroppo non praticabili in ambito nazionale, insomma. Noi, quello che stiamo facendo noi con Control, è cercare di promuovere appunto un percorso che porti queste licenze sul mercato, perché crediamo che sia l'unica opzione che può salvare il mondo dalla crisi culturale che è data appunto dal copyright insieme alla cessione dei diritti. C'è un altro percorso molto interessante che si sta svolgendo in Germania, che si chiama C3S, sarebbe Cultural Commons Collecting Society, ed è la prima collecting in Creative Commons che si sta formando in collaborazione tra la GEMA, che è la CIA tedesca, Chaos Computer Club, che è un grande club di hacker tedesco, più varie altre realtà. Loro sono abbastanza avanti nella produzione di un sistema che sia in grado di gestire le royalties per le Creative Commons, nonostante non abbiano ancora ufficialmente iniziato a farlo. Stiamo a vedere, insomma, è molto importante che le Creative Commons abbiano la possibilità, abbiano un ente che garantisce la raccolta delle royalties per gli usi commerciali, altrimenti non, cioè, sostanzialmente rimarranno sempre relegate nel mondo del lobby o dell'attivismo, eccetera, eccetera.